Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che osserva l'attualità e legge le notizie attraverso un filtro speciale. La nostra promessa è raccontarvi, attraverso fatti di cronaca italiani ma anche del resto del mondo, il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali. E intendiamo proprio dire che noi umani stessi siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 758, approfondiremo la vicenda dell'assassinio dell'orsa in Trentino, con alcune voci, tra le quali quella del mitologo antispecista Francesco De Giorgio. Per la cultura proponiamo un'altra puntata della rubrica Animali d'assetto, curata per noi da Emilio Maggio. Siamo arrivati all'emma Pipi come pensiero animale. Infine vi presenteremo il libro Le Diplomate del filosofo francese Baptiste Morisot, che da anni sta sostenendo con le sue opere che esiste un solo modo per preservare l'abitabilità della terra e il sostentamento della vita umana, cioè stringere alleanze con i terrestri non umani. Speriamo di avervi incuriosito. Vi ricordiamo che la trasmissione settimanale Restiamo Animali, 30 minuti antispecisti, animalisti e vegan, potete trovarla anche su Facebook e Twitter, podcast e approfondimenti su www.restiamoanimali.it. Come promesso, iniziamo sul tema degli orsi, torniamo sull'abbattimento dell'orsa KJ1 in Trentino, l'esecuzione dell'orsa per la volontà del presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. È stata questa una notizia terribile per tutte le persone con sensibilità animalista ed ecologista. Abbiamo già commentato a caldo la vicenda nella puntata scorsa condotta da Lorenzo Guadagnucci. Qualche giorno fa l'etologo antispecista Francesco De Giorgio ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un interessante servizio sul modo in cui gli orsi grigi si sono evoluti nel tempo, cercando di fare chiarezza, una chiarezza scientifica che si allontana dall'emotività. La trasmissione Restiamo Animali ha chiesto a Francesco De Giorgio di poter mandare in onda la sua voce per quella che è una piccola breve perla, una piccola breve lezione di cultura animale. Gli antenati degli orsi premoderni hanno iniziato ad evolversi a partire da circa 30 milioni di anni fa, da un ramo distaccatosi da quello degli odierni canidi. I primi orsi che possiamo definire moderni sono apparsi circa 5 milioni di anni fa. L'orso bruno europeo ha iniziato ad evolversi 1-2 milioni di anni fa. Giusto per capirci, noi Homo sapiens siamo apparsi tra i 130.000 e i 200.000 anni fa, cioè quando noi sapiens abbiamo iniziato a camminare in Europa, gli orsi già la consideravano casa da almeno un milione di anni. Gli orsi bruni sono insoliti membri dell'ordine carnivora. Infatti, anche se l'orso bruno, Ursus arctos è classificato come specie carnivora, in realtà è onnivoro e per lo più vegetariano. Essi mangiano un'ampia varietà di alimenti, ad esempio frutta, bacche, semi, noci, radici, erba, insetti, carogne, a volte ungulati selvatici. In genere raccolgono cibo con il valore più alto possibile disponibile in un determinato momento. La primavera è la stagione più impegnativa, soprattutto fino all'inizio della stagione di crescita. Durante questo periodo, un orso può attaccare ungulati debilitati dall'inverno o che si muovono con difficoltà a causa della neve tardiva e del ghiaccio. Anche le carcasse di animali morti durante l'inverno rappresentano un'importante fonte di cibo per la dieta primaverile. Gli orsi si nutrono anche di cibo antropogenico, ad esempio rifiuti, o, eccezionalmente, anche di animali domestici debilitati, impossibilitati alla fuga o comunque non adeguatamente custoditi. Gli orsi bruni iniziano ad accoppiarsi quando hanno intorno ai 3-5 anni. Gli orsi adulti sono solitari, tranne durante la stagione degli amori, da aprile a giugno. 1-4, di solito 2 cuccioli, nascono durante il periodo della tana, intorno a gennaio. Alla nascita i cuccioli sono ciechi, sdentati, glabri e pesano meno di 500 grammi. Di solito vivono con le loro madri per un anno e mezzo ed oltre, in base alle esigenze di crescita e apprendimento. L'apprendimento sociale dalla madre è fondamentale per rendere i cuccioli esperti ed autonomi, per una vita in un ambiente con diverse sfide e soglie, dove lo sviluppo di un patrimonio cognitivo tramandato e appreso può fare la differenza. La cultura è ampiamente accettata come un importante fattore sociale presente in un'ampia gamma di specie. Gli orsi hanno una cultura definita come tradizioni comportamentali ereditate attraverso l'apprendimento sociale, di solito dalle madri alla prole. Gli orsi bruni sono generalmente timidi e in genere evitano le persone. Molto probabilmente si ritirano prima che ce ne accorgiamo, quindi è davvero difficile vedere un orso nel suo habitat naturale. Gli orsi europei non vedono gli esseri umani come potenziali prede. Gli attacchi degli orsi si verificano raramente e si verificano quando vengono sorpresi, provocati o mentre difendono i loro cuccioli. Dato che hanno un acuto senso dell'olfatto, gli orsi comunicano tra loro anche attraverso lo sfregarsi sugli alberi, lasciando peli e odore personale, che possono rappresentare per gli umani alcuni dei segni della loro presenza, al fine di evitarne l'incontro. L'olfatto di un orso è circa 100 volte migliore di quello di un essere umano, dando loro un naso affilato per trovare cibo a grandi distanze, ma anche per evitare incontri indesiderati. Tra novembre e marzo, gli orsi in genere rimangono nelle loro tane per risparmiare energia quando il cibo scarseggia. La temperatura corporea di un orso si abbassa e rallenta sia la frequenza respiratoria che quella cardiaca. Non si nascondono necessariamente nelle grotte rocciose, possono anche trascorrere l'inverno sotto un albero caduto, in un nido aperto, sotto una scogliera o semplicemente nascosti in una fitta vegetazione. Trascorrere l'inverno nella tana è probabilmente un adattamento alla mancanza di cibo durante l'inverno e forse alla nascita di cuccioli che non sono in grado di termoregolare. Alcuni orsi possono rimanere attivi per tutto l'inverno. Mentre una certa iconografia ci ha trasmesso l'idea che quando un orso si alza in piedi questo rappresenta un atteggiamento di minaccia e aggressione, nella realtà l'orso utilizza questa posizione quando vuole raccogliere maggiori informazioni, indagando così una nuova situazione o un nuovo odore. Se incontri un orso, non correre, non arrampicarti sugli alberi o non nuotare, perché gli orsi possono fare tutte queste cose meglio di noi. La velocità di corsa dell'orso può arrivare fino a 50 km orari. Se un orso si mette in posizione eretta, questo segnala curiosità e non preparazione all'attacco. Se segnaliamo la nostra presenza con voce pacata, gli orsi ci noteranno e si allontaneranno. Gli attacchi diretti degli orsi agli umani sono rari. Essi possono attaccare solo quando si sentono in pericolo. Tieni il cane al guinzaglio. Se il tuo cane incontra un orso, probabilmente si precipiterà direttamente sull'orso e lo condurrà da te quando cercherà protezione. A volte gli orsi eseguono il cosiddetto falso attacco, ci caricano ripetutamente senza alcuna intenzione di attaccarci, vogliono solo respingerci. In breve, qualche suggerimento. Fai caso alle tracce che trovi. Ascolta il bosco, fruscii, suoni. Resta cognitivo e mantieni sveglia la tua animalità. Fai notare frequentemente, con calma e senza disturbare, la tua presenza al bosco e ai suoi abitanti. Ritirati dall'incontro con un orso con lentezza, interrompendo spesso e con calma la ritirata, senza movimenti bruschi o rigidi. Muoversi in contesti naturali richiede un riassetto del nostro vivere il mondo, gli altri e noi stessi. La natura non va considerata una palestra, un centro benessere o una grande area cani. Un bosco è casa di una moltitudine di animali che facilmente possono irritarsi dalla presenza di umani poco in contatto con il proprio sé animale. Rallenta, ascolta, annusa e guarda i segni dell'animalità. L'orso ha diritto ad essere orso, ad essere quell'orso, e noi abbiamo il dovere ad essere attenti al mondo in cui viviamo, di cui non abbiamo l'esclusiva. Grazie. Ricordando ancora una volta l'orsa KJ1, barbaramente uccisa nella provincia autonoma di Trento, dopo i dovuti approfondimenti sull'orso, sugli orsi, sulla nostra possibilità di convivere con gli orsi, con questi meravigliosi animali, adesso passiamo alla cultura. Dedichiamo spazio alla cultura da sempre. E in particolare dedichiamo spazio al cinema, grazie alla nostra collaborazione ormai più che decennale con il filmologo antispecista Emilio Maggio. Adesso vi proponiamo un'altra puntata della rubrica Animali da Set, una serie curata appunto per noi da Emilio Maggio, che procede per Lemmy. Stavolta tocca all'Emma P, P come pensiero animale. Sentiamo. In questa puntata la lettera PP come pensiero o prospettiva animale. Generalmente il cinema veicola una prospettiva, un punto di vista che siamo abituati ad associare all'umano e che a sua volta produce una elaborazione cognitiva che delega all'immaginazione dello spettatore il dovere di pensare un mondo a sua immagine e somiglianza. Anche se i film che intendono decostruire questa omologazione dello sguardo sono molteplici e costituiscono una specie di controstoria eretica di quell'occhio che uccide, che è il cinema stesso come dispositivo che aliena e assoggetta ogni pensiero considerato debole e ogni prospettiva non conforme al canone spettacolare, ancora non sono stati presi in considerazione quei tentativi che hanno cercato di formalizzare esteticamente ed eticamente opere in cui il pensiero rappresenta un totale fuoricampo dell'inquadratura, un pensiero animale. Se ci rimediamo ai cini animali, viene spontaneo chiedersi in che modo il cinema ha provato a tessere le sue trame non necessariamente antropocentriche, quelle per dire strutturate sulla dittatura dell'occhio onnisciente della macchina da presa che tutto vede, comprende e determina. In altre parole, l'obiettivo della macchina da presa è anche un modo traslato per connaturare il cinema come macchina della verità obiettiva e trasparente, soprattutto senza quegli infringimenti stilistici che potrebbero mettere a repentaglio il potere delle immagini in movimento come in qualche modo rappresentative della realtà duplicata. A questo proposito risulta perlomeno problematico associare, per esempio, l'antropomorfismo a cui ricorrono molte pellicole, soprattutto nel cinema di animazione, con l'antropocentrismo di fondo del cinespettacolo, rifacendoci a Deleuze e a Massimo Filippi, che ne rilegge il pensiero critico in chiave antispecista. Fare film con gli animali dovrebbe avere il significato di interpretare la parte di un animale, filmare come filmerebbe un animale ed essere ripresi come un animale si farebbe riprendere. Deleuze direbbe instaurare una relazione animale con un animale. Questo è, per così dire, un antropomorfismo strategico, come lo chiama la fisica teorica Karen Barad, ovvero un escamotage a cui ricorre necessariamente l'espressione artistica umana per materializzare il divenire animale. Al cinema sono proprio i cartoni animati a servirsene per infrangere i canoni della rappresentazione animale basata sulla ideologia della verosimiglianza, oppure, per fare un esempio recentissimo, servendosi solo di make-up, Thomas Cahier, nel suo formidabile Regno Animale, dove il filmmaker prova a infrangere le barriere di specie, immaginando un mondo post-umano in cui tutti i viventi diventano, seguendo l'eterodossa classificazione delle animali demoniaci. Se Io, il magnifico testamento di Skolimowski, rappresenta forse l'apice di un suo movimento anti-antropocentrico cinematografico in cui anche l'antropomorfismo si dilegua per paventare un cinema di per sé animale, dove le parole diventano addirittura insignificanti, ci sono anche ulteriori esempi di cinema il cui intento è formalizzare in qualche modo il pensiero animale. Cinema come organismo vivente, non umano o inumano. Il Buco di Michelangelo Frammantino, per esempio, si insinua proprio in questo crinale dove la prospettiva anomala di una mucca conferisce un'intera pellicola un pensiero, per così dire, bovino all'impresa speleologica rappresentata. Una prospettiva insolita, fatta di curiosità, indifferenza, di pace, tutti racchiusi nello sguardo complice, insieme trasognato, della mucca davanti a quel buco nel terreno che annuncia l'ingresso nella grotta. Oppure il cieco che non voleva vedere il Titanic del finlandese Teemu Nikku, dove l'intero film è girato dalla prospettiva anodina, sfocata e baluginante del protagonista, affetto da una grave malattia degenerativa e ormai quasi del tutto cieco, che nella sua folle corsa in carrozzella per disabili verso l'amata con cui ha una relazione solo telefonica, viene salvato da una più che probabile tragedia finale, da un cane in grado di restituirgli quel pensiero animale che gli permette di dotarsi di una specie di sesto senso oltre quelli che va oltre a quelli che ci definiscono come abili individuabili, cioè normali. Oppure ancora The Book of Vision, del poco considerato Carlo Hinterman, capace di dare vita a un film profondamente teorico sulle regole della visione associata, secondo il canone scientifico positivista, sempre e unicamente all'occhio anatomico, sezionante e dissezionante, mentre il medico prussiano Johann Anmuth, nel suo manoscritto appunto The Book of Vision, redatto nel XVIII secolo, ne contesta con forza i postulati scientifici, avvalendosi innanzitutto dei desideri, delle speranze, delle paure, dei sogni di ben 1800 pazienti da lui interpellati, e che danno vita a un libro profondamente animista e in cui il pensiero animale contamina l'intero svolgimento della pellicola. In questo senso è ancora delezianamente reale solo quello che si desidera veramente, non quello che accade nella realtà. Questo significa divenire animale, pensare come un animale, pensare come la foresta in cui Eva, la protagonista del film che sta portando avanti una ricerca proprio su Anmuth, capisce che non è la dissezione chirurgica di un corpo a fornire la possibilità di curarsi, bensì scoprire la dimensione dell'aperto, ovvero la dimensione del pensiero animale, che non sta dentro il corpo come un'anima, ma sotto, sopra e intorno. Ho parlato molto dell'orsa uccisa in Trentino e dell'impegno nel parco d'Abruzzo, Molise e Lazio per trovare soluzioni di convivenza pacifica con gli orsi, ci sembra coerente e molto stimolante un libro uscito in Francia intitolato Les Diplomates, cioè i diplomatici, del filosofo francese Baptiste Morisot, che parte dalla questione dei lupi che hanno ripopolato il massiccio centrale, per sostenere che c'è bisogno di un'altra carta costituzionale del vivente nel nome di una nuova coabitazione. Il libro purtroppo non è ancora stato tradotto in italiano, l'Italia non brilla per l'originalità della sua editoria e se non è originale l'editoria italiana è ancor meno ecologista, ricalcando anche un po' la società a cui appartiene, una società di lettori a cui i libri sono destinati e che evidentemente non cercano e non premiano questo argomento. Tuttavia, noi invece riteniamo che sia giusto segnalare questo libro. Noi lo abbiamo intercettato grazie a un bel servizio, in italiano, di Gianfranco Marrone, intitolato Diplomazia Animale, che abbiamo trovato su doppiozero.com, una interessante rivista di cultura online che consigliamo di seguire. Per incuriosirvi, ve ne leggiamo alcuni passaggi. La celebre epistemologa Isabel Stengers ha detto una volta, per esempio, che il vero scienziato deve innanzitutto essere un diplomatico. Il suo lavoro non è tanto conoscere il mondo, ma mediare fra nuove ipotesi da discutere e vecchie tesi già attestate. In tal modo, mediando fra forme di sapere e loro stabilizzazioni, riesce a far affiorare, nel passaggio traduttivo, nuove sostanze e nuove qualità delle cose. Lo scienziato, come il diplomatico, non fa emergere ciò che è nascosto nella realtà, ma traduce fra forme di discorso, ipotizzando nuove forme di funzionamento del mondo, che sta costruendo in opposizione a un mondo già dato dalla scienza precedente. Qualcosa del genere ha sostenuto, in tutt'altro campo, il giovane filosofo francese Baptiste Morisot, in uno straordinario libro dedicato al ritorno in massa del lupo nelle montagne francesi, intitolato appunto Le Diplomates, uscito nel 2016 e mai tradotto in italiano. Preoccupate di una sua probabile estinzione, le autorità da qualche tempo hanno salvaguardato il lupo, dichiarandolo specie protetta. Così, quest'animale ha iniziato a riprodursi tenacemente e a poco ha ripopolato il Massiccio Centrale, le Alpi e quant'altro, tornando a essere quella bestia temibile che era, a discapito delle greggi e degli stessi pastori. Non molto diversa la situazione nei nostri Appennini. Cosa fare in una situazione come questa? Riprendere a sparargli contro? Rinchiuderlo in apposite riserve? Sacrificare le pecore? Urge una mediazione diplomatica, sostiene Morisot, una filosofia lupista, il termine è suo, che sappia considerare le ragioni di tutti, scontentando forse le varie parti in causa, ma provando a scrivere, nella coabitazione col lupo, un'altra carta costituzionale del vivente, un nuovo modo comune dove anche gli animali abbiano il loro ruolo, i loro diritti e doveri. Dietro il lupismo si celano insomma fondamentali questioni al tempo stesso metafisiche e politiche, etiche e ecologiche, etologiche e territoriali. Abbiamo estremo bisogno, oggi, di diplomatici capaci che sappiano trovare soluzioni ad hoc, mediando volta per volta fra pastori e lupi, cacciatori e cinghiali, allevatori e predatori, orsi e custodi di parchi naturali, eccetera. Vale la pena di leggere, a questo proposito, le tante opere di Vincent Desprez, fra cui, nella nostra lingua, un ottimo libro intitolato Quando il lupo vivrà con l'agnello, uscito diversi anni fa per Eleutera. With my knees against my mouth, I am perfectly round. I am watching you. I am cold against your skin. You are perfectly reflected. I am lost inside your pocket. I am lost against your. Per questa puntata è tutto, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana alla nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 759 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.